Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Sabato scorso abbiamo cominciato una sorta di viaggio con voi, prendendo spunto dalla rievocazione dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma in Campidoglio, per affrontare un aspetto forse poco noto. Chi erano i protagonisti che prepararono i testi da sottoporre alla firma dei leader politici convenuti a Roma? Diplomatici, esperti, alcuni di quelli che oggi definiremo degli sherpa, ma non solo, economisti e grand commis. Le interviste vennero realizzate negli anni Ottanta dalla professoressa Maria Grazia Melchionni, che attualmente dirige la rivista di studi politici internazionali, e da Roberto Ducci. La scorsa settimana la professoressa Melchionni ci ha illustrato le linee portanti che hanno ispirato le interviste, e anche questa sera è con noi e ci aiuterà a orientarci nelle interviste. Buonasera, professoressa. Buonasera, dottor Pedore. Allora, oggi cominciamo con il proporre ai nostri ascoltatori l'intervista a Émile Noël, fornita dall'Istituto dei Beni Sonori Audiovisivi. Émile Noël era capo di gabinetto del premier francese Guy Mollet e il suo più stretto collaboratore nello svolgimento della politica europea. La chance d'être jeune. Vous avez la chance d'être jeune et maintenant on donne la construction européenne. Lei è certamente molto giovane e tuttavia occorre sottolineare come venga attribuita alla costruzione europea ogni sorta di altre motivazioni. Bisogna rendersi conto che 40 anni fa uno dei motivi principali, anzi il motivo principale della costruzione europea, era l'individuazione dei mezzi per superare gli antagonismi che avevano portato alla guerra e che rimanevano in campo al di là della guerra, e di individuare dunque una base ragionevole per un'intesa tra i popoli d'Europa e in particolare tra la Germania e i paesi che la Germania aveva invaso e trattato come nemici. Vi era lo stesso atteggiamento da parte della Germania. La motivazione principale era quella di individuare un terreno in cui fosse possibile, associando la Germania a un insieme di paesi, se così posso dire, di guidarla attraverso la sua evoluzione democratica. La strada era di inserire la Germania accanto a questo insieme di paesi in condizioni di uguaglianza e libertà, e di evitare che si ricreassero le condizioni per l'emergere di frustrazioni, di riflessi nazionalistici che avevano fortemente contribuito all'affermazione del nazismo negli anni 30. Ora, questo appare se si evoca tutto ciò all'interno di interviste dal carattere storico, ma se si evoca tutto ciò, questo potrebbe apparire come degli schemi vecchi, e alcune delle nuove generazioni ritengono che vi sia altro e intravedono altri motivi nella costruzione europea. Ma occorre tenere ben presente che in quell'epoca vi era una motivazione principale, ed era una motivazione che dava luogo a controversie. C'était le motif principal et c'était un motif qui donnait lieu à controverse. Allora, professoressa Melchionni, Émile Noël ci dice sostanzialmente quali erano le motivazioni vere che erano dietro alle trattative che condussero poi alla riunione storica in Campidoglio. Ce le illustra meglio, ce le spiega, ci spiega anche meglio chi era Émile Noël. È il grande tema della riconciliazione fra i nemici storici, la Francia e la Germania, e in genere fra i paesi che si erano confrontati durante l'ultima guerra, in particolare fra la Germania e tutti gli altri paesi che più o meno erano stati da questa dominato. Ed è un tema che ritorna in varie interviste e che dimostra come questi trattati, come anche il trattato CECA, pur avendo anche avuto un contenuto economico, hanno avuto un'origine politica, sono trattati politici. Il trattato CECA doveva risolvere il problema della rivalità franco-tedesca in campo carbosiderurgico ed eliminare e dare una gestione comune ai materiali di base per l'industria degli armamenti. E qui si trattava ancora di realizzare, come vedremo nella storia del negoziato anche dopo, le motivazioni politiche sono state quelle che hanno fatto superare le difficoltà economiche che c'erano a liberalizzare in quel momento fra i paesi europei, soprattutto per la Francia. Se non ci fosse stata una forte motivazione politica che ha messo in evidenza la crisi di Suez, come vedremo poi meglio, non sarebbe stato possibile concludere il trattato per il mercato comune. Quindi una motivazione politica che è dietro poi le scelte che furono quasi tutte concentrate sul terreno economico. E adesso, professoressa, ascoltiamo un'altra parte della testimonianza di Émile Noël, in cui si focalizza il tema sulla Germania e sul rapporto tra la Germania e la Francia. Sur l'affaire de la deuxième visite du chancelier. Sulla questione della seconda visita del cancelliere, il punto importante è che questa visita abbia avuto luogo. La visita era stata programmata molto in anticipo. Era prevista, credo, il 3 o il 4 novembre. Poi ebbe luogo il lancio delle operazioni militari francesi a Suez, che si svolsero il 31 ottobre o il 1 novembre, e si pose la questione: il cancelliere verrà oppure no? E vi era, diciamo così, una forte spinta all'interno dell'opinione pubblica tedesca perché il cancelliere, per motivazioni differenti, potesse differire la visita. Invece il cancelliere ha confermato la visita e la principale conversazione tra lui e Guimollet fu un colloquio faccia a faccia che si svolse all'hotel Matignon, nel corso del quale si disse che aveva tenuto ferma la visita come espressione della solidarietà politica con il governo francese. E ciò mostra come Adenauer fosse un grand'uomo. In un momento difficile per il governo francese, benché questa visita non fosse particolarmente popolare in Germania, le si volle attribuire un significato simbolico. Una parte della conversazione fu appunto un faccia a faccia che toccò diversi temi, dall'operazione di Suez alla descrizione della situazione politica che poteva far sì che il cancelliere, se ho ben compreso, dicesse a Guy Mollet che se loro due si fossero impegnati, occorreva al tempo stesso affrontare la questione rapidamente e in modo netto. Allora, professoressa, questi retroscena sulla visita di Adenauer sono molto, sì, molto interessanti. Sì, bisogna spiegare meglio come stavano le cose a quel punto. Sì. Il negoziato era sul mercato comune, era bloccato dall'estate del 56, e l'ultima conferenza dei ministri degli esteri che c'era stata il 20-21 ottobre del 56 aveva mostrato l'impossibilità di procedere, tanto che bisognava fare questo incontro a livello superiore, che era stato preventivato, era stato previsto per il 6 novembre. La crisi di Suez, che era scoppiata già in luglio, precipita alla fine di ottobre, quando gli anglo-francesi, dopo l'intervento diciamo preliminare degli israeliani, partono per la spedizione militare. E si verifica una situazione di tensione altissima, perché gli americani, avvertiti ad operazioni lanciate del fatto, reagiscono duramente, provocando nel giro di poche ore la delibera dell'Assemblea delle Nazioni Unite per la fine delle operazioni, il ritiro delle truppe e così via. I russi poi, due giorni dopo, il 4 di novembre, minacciano l'invio di missili sulla Francia e sulla Gran Bretagna. Quindi era una situazione molto critica, cioè, che fa di grandissima tensione. Molti consigliano ad Adenauer di non andare all'appuntamento con la Francia, con Mollet. Adenauer invece decide di mantenere l'impegno, di dare una dimostrazione che ci si può fidare della Germania, no? Si può contare sulla Germania. Va a Parigi, e non solo va a Parigi e con Mollet risolve, fa quelle concessioni di cui la Francia aveva bisogno per poter essere in grado di firmare il trattato. Non tutto viene fissato in quel momento, qualcosa rimane ancora per aria, ma sostanzialmente si sblocca il negoziato, si va verso la conclusione del negoziato, e quindi dà una prova di solidarietà, una prova di molto difficile, tra l'altro, perché non tutti erano d'accordo. Molti pensavano che l'importante fosse il rapporto da salvaguardare, il rapporto con gli Stati Uniti, mentre Adenauer, proprio perché vede profilarsi una Pax americana, una Pax atomica tra l'America e la Russia, e un abbandono dell'Europa a se stesso, sostiene la necessità appunto della scelta europea. Ecco qui un'altra conferma, oltre che della grandezza di Adenauer come statista, ma anche della priorità dell'elemento politico in questo negoziato. E infatti, professoressa, non a caso Noël dice, e questa è la conferma, che Adenauer era un grand'uomo, cioè un grande statista. E poi obiettivamente c'è questo riferimento al fatto che la visita aveva un forte valore simbolico, anche questo è da sottolineare. E c'è un discorso che fa Adenauer il 25 settembre a Bruxelles, davanti alle grandi conferenze cattoliche, che sembra un discorso adatto al momento attuale, perché lui disegna un nuovo sviluppo politico che si profila sul piano mondiale, è costituito dalla minaccia della potenza russa, l'impossibilità di appoggiarsi continuamente sugli Stati Uniti, il ritardo dell'economia europea rispetto alle altre economie dei paesi avanzati, l'apparizione di popoli di colore sulla scena dell'attualità politica mondiale, il disastro della crisi di Suez, e dice la conclusione non può che essere il bisogno reale di fare un passo avanti nella cooperazione e nella fusione europea. E infatti, e poi ritorniamo al tema d'inizio, e cioè alla valenza politica di tutto questo. Professoressa, grazie nuovamente per essere stata con noi. Grazie a lei. E ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie, buona serata. Volentieri.